E benvenuti alla nona puntata di Cialtroni nello spazio. La redazione clandestina ha occupato lo studio viola della radio anche questa sera, quindi ci ascolteranno come al solito i nostri ascoltatori del mercoledì pomeriggio, ma anche quelli del martedì sera che volevano ascoltare musica. E quindi se volete magari provare a telefonarci, siamo questa volta in diretta e quindi possiamo rispondere alle vostre telefonate. 030 45 670, per una volta potete dirci se vi piace o non vi piace la nostra trasmissione, quali sono gli argomenti che vorreste trattare e tutto il resto. E se avete dei dubbi sull'informatica o qualcosa di particolare o di interessante che ci volete dire o di cui ci chiedete di parlare, fatevi sentire. Risponderemo in diretta ai vostri dubbi peggiori informatici. Almeno ci risponderà Marco o Alessandro anche. Poi oggi abbiamo anche un ospite. Qua è finita la musica, Ale, dovresti mettere play, grazie. Sempre distratto, eh? Zampi invece dovrebbe alzare il volume del CD giusto. La base che teniamo stasera sono dei remix dei Chemical Brothers che abbiamo scaricato direttamente da internet. E remix licenziati dei Chemical Brothers, quindi è tutto legale. www.chemicalbrothersremixed.com. Giusto Marco? Perfetto. La scaletta di questa sera, Marco, che cosa ci propone questo pomeriggio per chi ci ascolta mercoledì, anzi? Allora, abbiamo una notizia di news fresca appena arrivata, di oggi appunto, che è la Telecom che è stata denunciata c'è stata una denuncia verso la Direzione Generale della Concorrenza del Mercato dalla Commissione Europea da parte dell'associazione Anti Digital Divide, che fondamentalmente denuncia la Telecom per abuso della posizione di monopolio. E poi abbiamo in programma di parlare di sistemi di messaggistica online, ovvero sia come poter dialogare con persone dall'altra parte del mondo o dall'altra parte della cucina via internet, e poi di sistemi di trasmissione di voce attraverso appunto internet, sistemi voice over IP. E invece il gruppo che presentiamo stasera sono i Terramara, dedicati al... Non sei preparato? No, no. Stasera va un po' così. No, comunque sono un gruppo che fa pizziche, quindi dedicato a tutte le fanciulle in ascolto. Non sappiamo molto di questo gruppo, nel senso che è un gruppo che abbiamo rintracciato su internet, al progetto vilipendio.inventati.org, che è un'etichetta che fa da etichetta indipendente per tutti quei gruppi che si autoproducono. E adesso andiamo a ascoltare Lusole Calua Calua. E dopo queste tarantelle note, entriamo nel vivo della trasmissione di oggi. Andiamo a parlare di news. Questa settimana riusciamo a dare delle news, delle news quasi in diretta, diciamo, nonostante la trasmissione sia registrata. Esatto, appunto, la novità è che Telecom Italia, che l'ex SIP, che è diciamo il monopolista italiano per quanto riguarda le telecomunicazioni in Italia, quella che tutti odiavano sia negli anni 90 che negli anni 80 che prima. Esatto, quella che metteva gli scatti sulle telefonate e tutte queste. Va bene, è stata denunciata appunto in questi giorni dall'associazione Anti Digital Divide, ovvero sia l'associazione contro la divisione digitale, appunto per abuso di posizione di monopolio e appunto in particolare per quali cose. Allora, Telecom Italia fondamentalmente da sempre si rifiuta di investire in diciamo in connettività, ovvero sia per rendere tutte, diciamo, per estendere la zona coperta dall'ADSL. Allora, cerchiamo di spiegare un po' come funzionano le telecomunicazioni. Grazie Alessandro, che mi salvi in corner. Allora, le telecomunicazioni funzionano più o meno tutte in questo modo. C'è un canale dove trasferire delle informazioni, o meglio, ci sono tanti canali e una ditta può decidere di comprarne un tot. Come a Venezia. Esatto. E può decidere di convogliare il traffico su questi canali. E ovviamente tutto quello che cercherà di fare sempre è di avere il minor numero di canali possibile e il maggior numero di traffico da convogliare, ovviamente pagato. E ovviamente Telecom fa lo stesso ragionamento. E quindi diciamo cosa si traduce in soldoni. Ad esempio, che a Telecom non conviene, ad esempio, portare la DSL in zone dove ci sarebbero pochi utenti che la utilizzano, appunto perché a quel punto i guadagni che ne verrebbero da questi pochi utenti non ne varrebbero la spesa. Però il problema è che in realtà, essendo in Italia in questo regime di praticamente monopolio di Telecom, nessun altro può fare un'offerta differente da Telecom, e quindi Telecom di fatto decide le quotazioni della DSL sul mercato, decide praticamente tutto per quanto riguarda i prezzi e la gestione del servizio in Italia. E si può dire infatti che svariate volte lo sviluppo delle altre imprese che si occupano di internet è stato forzato tramite l'antitrust e delle leggi che andavano proprio in direzione opposta a Telecom. Ad esempio una delle prime era stata Tiscali, che aveva dovuto fare una battaglia legale per avere il permesso di interconnettersi al doppino telefonico di Telecom prima di arrivare alle sue linee. E il problema dell'ultimo miglio si può dire che è stato spesso anche identificato come uno dei problemi principali del monopolio. Sì, esatto, l'ultimo miglio appunto era la situazione per cui un provider internet potesse portarsi la connettività a casa mia, a casa di Francesco, a casa di qualcun altro, però l'ultimo miglio l'ultima tratta della linea dovesse essere fornita obbligatoriamente da Telecom. Questa cosa adesso non c'è più, però non c'è più nella forma, ma in realtà nella sostanza è ancora così. Di fatto Telecom oggi detiene due prerogative: una è quella del servizio telefonico, del servizio internet eccetera, e l'altra come è di fatto il gestore nazionale del fisico, cioè delle centraline e di tutto quanto gli va dietro. Quindi in questa doppia veste il conflitto di interessi è evidente, insomma. Ma forse invece che divagare potremmo parlare proprio di questa condanna che è arrivata, Marco. In realtà non è ancora una condanna, è una denuncia fatta appunto da questa associazione verso la Direzione Generale della Concorrenza del Mercato della Commissione Europea, appunto per chiedere di multare Telecom Italia per la posizione di abuso di monopolio. E appunto la multa, si tratta di una cifra decisamente consistente, si parla di un 200 milioni di euro, che è decisamente una cifra consistente. Beh, direi comunque non eccessiva in confronto agli incassi che può oggi garantire la posizione dominante a Telecom e che ha garantito negli anni passati. Ma senti Marco, ma come mai la Commissione Europea? È una bella domanda. Perché in Italia non esiste l'antitrust di fatto. Praticamente non so effettivamente se non perché non è stata fatta a livello europeo, a livello italiano. Comunque in Italia esiste una commissione antitrust fantoccia gestita da non mi ricordo più da chi, però. Più che altro da incompetenti, nel senso. Dio, c'è dentro qualcuno di Mediaset nella gestione dell'antitrust italiano. Non vorrei dire una cretinata, però mi sembra qualcosa sì, del sì, genere. Ci sono dei rappresentanti di tutti i grandi per grandi cui, poli. Alla fine sono loro che decidono le regole antitrust, quindi in questa situazione nostra italiana si spera che a livello europeo magari possa arrivare qualcosa di buono. Dio, speranza che forse Michele fa una faccia strana, visto che, vabbè, saltando i pali in frasca, di recente la Commissione europea ha appunto approvato la legge sui brevetti software, che è una clamorosa porcata in una maniera quasi anticostituzionale, vabbè. Lascia perdere. Ne abbiamo già parlato un po'. Ritorniamo appunto su Telecom Italia. No, Telecom Italia, c'è una cosa abbastanza carina che era saltata fuori qualche mese fa. Telecom Italia offre la DSL anche in Francia. Il prezzo della DSL francese è più o meno, era meno qualche mese fa, più o meno la metà del prezzo della DSL italiana. E quindi per la metà del prezzo però si poteva ottenere una DSL che andava 4 volte tanto rispetto ai prezzi italiani, quindi si parla di una differenza di 1 a 8, un ottavo, no, non una differenza di un ottavo, si parla appunto di una banda di un ottavo a parità di costo di quella francese, e diciamo, è fornita poi tra l'altro dallo stesso provider che è Telecom Italia, che offre connessione a DSL sia in Italia che in Francia. La differenza è che in Francia non detiene il fisico. Esatto, è un fornitore via. Come gli altri, come se fosse qua la Wind piuttosto che Tele2 piuttosto che Fastweb o chiunque altro. Esatto, perché citando appunto la pubblicità di Telecom in Francia, Telecom vende in Francia la DSL Alice a euro 15,95 al mese, garantendo una banda massima di 8 megabyte al secondo. Megabit, scusatemi, ho sbagliato. Ma che cos'è un megabit? Ma qua si può entrare veramente nel tecnico. Invece la liquidiamo in un secondo. Un byte sono 8 bit. Ok, direi che abbiamo sistemato la questione Telecom Italia. Mandiamo un altro pezzo musicale, sempre dei Terramara. Facciamo le cose e allusione. calo padrino non può riprendere. Sulle calale te, calo padrino non può riprendere. Sulle calale te, calo padrino non può riprendere. Sulle calale te, calo padrino non può riprendere. Arrivata la corna. Rieccoci. Passiamo al prossimo argomento, quindi di che cosa parliamo, Marco? Parliamo di sistemi di messaggistica online, ovvero chat, ovvero instant messaging, ovvero ICQ, no. Oppure game. Ah, perfetto. Allora, hai sparato tantissimi nomi, ma diciamo che cos'è in la messaggistica online. La messaggistica online è sono vari sistemi, perché ne esistono veramente un sacco, che permettono a una persona, quando è connessa in internet, di aprire questo programmino e vedere quali dei suoi amici nello stesso momento sono connessi in internet e poter parlare due o tre parole scritte a computer o passarsi delle immagini, dei file, appunto. Quindi insomma io mi creo la lista di amichetti, vedo quando i miei amichetti sono online, o anche le mie amichette quando sono online, posso parlare direttamente con loro. Esatto, e puoi rompere le scatole alle tue amichette mentre sono online, come fa sempre Alessandro, che appunto se ne vantava prima. In realtà io la chat è una di quelle cose che non mi ha proprio mai preso. E a differenza di Marco, che invece ne sa a pacchi, adesso ce ne parlerà un bel po'. Ecco, allora, una cosa da notare è che ci sono veramente un sacco di sistemi di messaggistica online. Ci sono, diciamo che ognuno dei pezzi grossi dell'informatica ha proposto il suo sistema di messaggistica. La Microsoft ha proposto da sempre il suo MSN, la America Online il suo ICQ e IRC, MIRC, Yahoo il suo sistema di messaggistica. Insomma, ce ne sono veramente un sacco e noi volevamo appunto parlarvi questa volta di un software carino che ha come ottima caratteristica quello di implementare tutti questi protocolli in modo da avere nella propria listina delle persone sia gli utenti di MSN, sia quelli di ICQ, sia quelli di Jabber, sia quelli di GaduGadu, sia quelli di altri sistemi di messaggistica sconosciuti che nessuno di noi probabilmente ha mai usato. E questo software si chiama GIM, scritto GIM. Ricordiamo che sul sito ci saranno sempre tutte le informazioni e tutti i link per cercare quello di cui abbiamo parlato oggi, compreso quello di cui parlerà Marco adesso. Esatto, abbiamo altri client che hanno le stesse caratteristiche, ad esempio PSI, giusto Michele? PSI, sì. PSI è un ottimo sistema, poi funziona sia sotto Windows che sotto Linux, quindi è un'ottima scelta. A differenza di Game, non si connette direttamente ai sistemi di messaggistica come già citati, MSN, Yahoo, eccetera, ma sfrutta una particolarità di Jabber che hai tralasciato di dire uno. Scusate. Sì, è importante perché è un sistema di messaggistica free, open source, e consente di implementare il tuo proprio server in grado di comunicare con altri server sulla rete. E dicevamo, PSI appunto si appoggia a Jabber e ha la caratteristica di Jabber di poter implementare dei gateway verso, dei gateway vero, dei ponti, la possibilità di instradare i messaggi anche su altri sistemi di messaggistica. Perfetto, cito soltanto per completezza anche un altro client che è Fire. Questo è presente soltanto per Mac OS X, però vabbè, anche questo ha tutte queste caratteristiche di avere il multiprotocollo. E per quanto riguarda i protocolli, comunque c'è da citare una cosa, che i vari MSN, ICQ e Yahoo ad esempio sono dei protocolli proprietari, ovvero sia non ci sono delle specifiche su come questo protocollo, cioè protocollo intendo il modo in cui i vari computer di questa rete di messaggistica parlano fra loro. Esatto, cioè cosa ne fanno delle informazioni che voi scrivete, come le trasferiscono e dove passano tutte queste informazioni. Quindi esiste insomma la possibilità, Marco, che qualcuno loghi in qualche modo, cioè tenga traccia delle cose che vengono scritte in questi protocolli? Sì, esatto, diciamo, è la trasposizione di quanto è per il software libero, c'è la possibilità che qualcuno ne prenda traccia, c'è la possibilità che che MSN da domani butti fuori il proprio nuovo client e decida di tagliare fuori tutti quelli che non utilizzano il loro programmino MSN, che gli permette di farti vedere il banner di pubblicitario sotto e quant'altro. Quindi alla fine anche qua sarebbe sempre da scegliere il protocollo che, cioè, diciamo, dei sistemi di messaggistica aperti. Però questa cosa le ragazze non la capiscono e quindi non partiamo dall'inizio, Marco. Allora, se una volesse utilizzare Game, come deve fare? Allora, va ad esempio sul sito game.sf.net e si scarica il suo programmino sia per Windows che per Linux, e a quel punto, quando lo lancia la prima volta, gli viene chiesto che account vuole abilitare su quel programma. E a quel punto cominci a dire: ah, il mio account ICQ è il 2313 bla bla bla, e la tua password è questa. A quel punto tac, ti saltano fuori tutti i tuoi amici che c'hanno la stessa cosa, insomma, quindi cosa, una volta installato possiamo cercare gli altri utenti, un nostro amico che per esempio utilizza ICQ, un nostro amico che utilizza Game, Jabber, un altro nostro amico che utilizza MSN, e li abbiamo tutti nella stessa finestra, quindi sembra una cosa abbastanza comoda. Esatto, la cosa, ovviamente Game è software libero e quindi ad esempio non c'ha la pubblicità inserita sotto o qualche altra cagata del genere, e diciamo sono abbastanza. Dici un po' troppe parolacce, Marco. Sì, è un mio difetto. We'll be right back. allacciandoci a, appunto, questi sistemi di messaggistica online, arriva un po' il nuovo trend di quanto riguarda appunto la connessione internet, che è il voice over IP. Voice, la voce, over sopra, e IP è il protocollo di trasmissione di internet, ovvero sia l'internet protocol, ovvero sia come i dati vengono mandati attraverso i fili dall'altra parte del mondo. Voice over IP consiste praticamente nell'avere un microfono. Il computer registra la voce dal microfono, instrada questa voce registrata attraverso internet fino a sbucare da un'altra parte del mondo o dall'altra parte della casa in un altro computer, e qui si può sentire la propria voce, cioè dove qualcun altro potrà sentire la mia voce. Mi sto perdendo. Allora, io parlo nel microfono, entra, esce dall'altra stanza dove c'è mio amico che sente la mia voce, lui parla nel suo microfono e io di qua sento la mia voce. E quindi ci si può tranquillamente mettere a dialogare su internet utilizzando semplicemente, non più scrivendo lentamente da tastiera, ma semplicemente appunto parlando. Voice over IP, ci sono un sacco di client ultimamente per tutte le varie piattaforme. Normalmente questi sono quasi tutti proprietari per una questione di costi, appunto, per fornire un servizio di qualità, appunto, per il trasferimento della voce, e esistono client per praticamente tutte le piattaforme e funzionano decisamente bene. Michele, vero? Sì, una delle cose da sottolineare è che alcuni di questi servizi hanno anche la possibilità di uscire dalla rete e quindi permettere la connessione anche con telefoni normali e anche cellulari. E cioè, come funziona per esempio questa cosa? Normalmente viene acquistato un credito su internet, con carta di credito, con PayPal, con qualsiasi forma di pagamento l'azienda lo mette a disposizione, e poi c'è la possibilità di chiamare con dei costi veramente irrisori. Si pensi, io mi sono trovato all'estero e potevo chiamare l'Italia con 2 centesimi di euro al minuto facendo delle intercontinentali. Quindi insomma, è un servizio che comunque aiuta anche a tenere in tasca qualche soldino e non a regalarlo alle compagnie delle telecomunicazioni che, insomma, ci hanno marciato per anni. Esatto, che poi utilizzano gli stessi metodi per mandare le nostre telefonate, soltanto facendoci pagare un'ira di Dio di più. Diamo anche qualche nome di questi programmi. Purtroppo, ripetiamo, non sono programmi liberi, però come servizio è giusto dire che esiste questa possibilità. Uno di questi è Skype, www.sky scritto SKYPE, come Palermo e come Empoli.com, che dà tra l'altro la possibilità anche di acquistare un numero di telefono per ricevere le telefonate direttamente sul vostro computer. Quindi potete far finta di avere un ufficio a Londra e ricevere le vostre telefonate sul computer, insomma. E l'altro ce lo presenta invece Michele. Sì, l'altro è, diciamo, il pioniere del voice over IP. Si chiama Net2Phone, la compagnia, Net2Phone.com. È scritto net come network, 2 in numero e phone in inglese, quindi PHONE. E come quello per asciugarsi i capelli. Sì, esattamente, come quello per asciugarsi i capelli. Occhio a non fare confusione. E anche Net2Phone fornisce lo stesso servizio. Una delle cose particolari è che consente di installare un piccolo apparecchietto hardware, quindi mentre per Skype parliamo di quasi esclusivamente software, anche se ci sono dei telefoni USB da collegare al computer, Net2Phone permette proprio di installare un un router, un router VoIP, e a questo router VoIP collegare il proprio telefono di casa. Questo è abbastanza interessante, soprattutto per chi, non so, vuole darlo alla nonna in modo che possa chiamare senza spendere troppo. Cioè, direi che tutto questo funziona solo quando si hanno delle connessioni veloci. Chi non avesse una DSL può tranquillamente scordarsi di poter telefonare via internet. Però diciamo, per coloro che hanno invece una DSL, questa realtà permette di ridurre tantissimo i costi delle telefonate. Ed ecco che torna l'importanza della connessione ADSL, che vabbè, forse qualcuno può considerare ancora un po' di nicchia, ma può essere il futuro delle telecomunicazioni. Beh, ed è quindi importante che ci sia la massima concorrenza in questo settore. È soltanto una cosa carina, appunto, Telecom Italia qualche mese fa, visto che questa novità del voice over IP gli dava molto fastidio, aveva deciso di impedire che qualcuno potesse mettere una DSL senza, cioè una DSL non associata a una linea telefonica analogica da cui prendessi i soldi dal canone. E per fortuna qualcuno gli ha fatto notare che non poteva fare una roba del genere. E in effetti c'è chi offre questo servizio anche in Italia. Ed è finita la nona puntata. La nona puntata, stiamo attenti. Sì, la nona. Speriamo di essere stati abbastanza allegri, così anche Diletta è contenta. Perfetto, io vi saluto, Francesco vi saluta, vi salutano anche gli altri, penso, della io trasmissione. Vi saluto. L'appuntamento è tra una settimana. Noi vi salutiamo, voi vi salutate e si salutano.